Fabrizio Intonti. Ma quando uno dice che vuole cambiare vita, esattamente che cosa vuole cambiare? Vuole cambiare aria, vuole cambiare ritmo, vuole cambiare stile di vita, quotidianità, amici, moglie, marito? La verità, secondo me, è che siccome noi passiamo la maggior parte delle nostre vite lavorando, quando uno dice che vuole cambiare vita, il più delle volte dice che vuole cambiare lavoro. Ma cambiare lavoro per fare che cosa? Per guadagnare di più? Fosse facile. Per lavorare di meno? Per me è ancora più difficile. Vuole cambiare lavoro, solitamente uno, per fare qualcosa che sia suo, che dipende tutto da lui, una sua idea, un suo progetto, qualcosa che gli faccia almeno pensare che le sere che passa facendo tardi, i weekend saltati perché deve finire una cosa, le giornate in cui non avrebbe voglia di fare niente e invece deve lavorare, almeno sono sacrifici che porteranno a qualcosa di suo, a qualcosa che gli possa far dire: questo è mio, questo l'ho fatto io, questa è un'idea mia. Ecco, questa è una tentazione che secondo me molte persone hanno, e questa è la cosa che oggi mi chiedo. Chi ha lasciato il suo lavoro per mettersi in proprio, per aprire un'azienda, per aprire un'impresa, per aprire un negozio, poi ha trovato questa soddisfazione? Si è pentito? Ha veramente trovato la felicità, la strada giusta? Ecco, io ve lo chiedo, voi rispondetemi. 800 24 00 24. Ecco qua, 9 e 50 per 3. Qua verrebbe il bancone. Basterà. E come faccio la pista d'atterraggio? Qua invece no, è tutta no. Pedale. Guarda qua che progettino! Ma qui gira? Guarda, guarda, questa poi girerà. Adesso fai conto, manca le luci, l'ho finita ieri sera. Questa sopra... è bellina, eh? Bellina. Qua è una figata. Sì, ma alla fine quanto ci viene a costare l'ambaradam? Ma tra il mutuo e le spese di gestione ce la caviamo con 2.000 al mese. Alla faccia! Alla faccia, aspetta! Considerando una media di incasso di 300 euro più euro meno, in meno di 2 anni raggiungiamo il break-even point. Cos'è? Chi? Brad Pitt. Ma che Brad Pitt? Ho capito male, ho capito così. Ragazzi, per favore, sono un sacco di soldi. Solo per te. E questo è l'inizio della febbre di Dalatri, un film in cui un gruppo di giovani vogliono lasciare i loro lavori, lasciare gli impieghi per aprire un pub, per aprire un'attività, una cosa da progettare da zero, una cosa da gestire, e con tutte le difficoltà ovviamente del caso, che non vi racconto perché se magari volete vedere il film. Benvenuti, questo è Giro di Vita, questa è Radio 24, io sono Achille Corea e noi ogni giorno raccontiamo storie di chi ha lasciato tutto per inventarsi un nuovo inizio. Oggi parliamo di chi lascia il lavoro, chi vuole farlo per mettersi in proprio, per avviare un'attività, qualsiasi attività sia. Non è oggi, insomma, non parliamo di economia, di mutui, finanziamento, investimenti, capitale. Cioè, lo so che sono cose importanti, però soprattutto in questa radio ci sono molti programmi dove ne possono parlare meglio. Io oggi vorrei parlare proprio, come facciamo sempre, di scelte di vita, di realizzazione personale. Chi ha lasciato un lavoro fisso, chi ha deciso di mettersi in proprio, chi a un certo punto ha cambiato per avere un'attività sua, cosa ci dice di questa sua scelta? La consiglierebbe? Quando sente gli altri che dicono mollo tutto e mi metto in proprio, che cosa pensa dentro di sé? Fate, oppure sì, dai, fatelo. 800 24 00 24, ma potete commentarci anche su Facebook, la nostra pagina si chiama Giro di Vita. Intanto io vorrei sentire il nostro primo ospite, che è Fabio. Pronto? Buongiorno Achille, buongiorno. Benvenuto. Tu hai lasciato un lavoro che era? Ma io facevo il consulente di direzione da ormai 10 anni, 40 anni, quindi più o meno dal 2000 facevo questo lavoro. Un lavoro serio, molto serio. Andava bene? Questa è la prima domanda, perché uno deve sempre capire. Andava bene, ti dirò che poco prima di iniziare questa iniziativa, o comunque mentre la stavo iniziando, ho ricevuto anche un'offerta di lavoro interessante, sempre nel settore, molto interessante. Quindi... andava bene. Quindi le tue giornate erano tra PowerPoint, suppongo, sì, documenti, sì, diciamo, bilanci. Sì, assolutamente PowerPoint, Excel, computer, comunque molto spesso attaccato al computer, riunioni con imprenditori, con manager d'azienda, insomma, in un contesto comunque sempre molto serio, diciamo che io indossavo la divisa tutti i giorni, ecco. Quindi... questa cosa che tu dici, so già due volte che usi la parola serio, fa come presagire che invece il cambio che tu hai fatto da qualcuno è stato percepito come non serio. Tu a un certo punto hai cambiato per fare cosa? Ma io sempre, giusto per non essere troppo serio, ho scritto che faccio e anche nel mio profilo professionale LinkedIn ho scritto che sono andato a fare il fruttivendolo. In realtà non è così semplice, perché dietro c'è anche un minimo di impresa, però sicuramente il contesto e gli interlocutori che mi trovo ad affrontare adesso sono molto diversi, e io li preferisco di gran lunga, direi, dalle persone con cui avevo a che fare quando facevo consulente. Spiegaci in 30 secondi che cosa fai, che mestiere fai adesso? Io sto avviando e ho avviato un'attività di distribuzione a domicilio di frutta e verdura biologica, di confezioni miste che variano ogni settimana di frutta e verdura biologica, al quale poi aggiungerò altri prodotti diversi, prodotti trasformati, conserve, succhi e comunque in generale. Quando magari mi capita di andare in giro e conoscere dei prodotti particolari di cui conosco magari il produttore e mi innamoro di questi prodotti, ecco, vorrò proporli poi ai miei clienti per condividere questa esperienza. Ce l'hai ancora la giacca e la cravatta? No, è assolutamente una delle cose che ho riposto nell'armadio e sono molto felice di averle riposte lì. No, adesso la divisa sono, direi, i jeans e scarpe da ginnastica, ecco, poco di più. Senti, che cos'era la cosa che non andava quando ti occupavi di aziende, di consulenza? Che cos'è che pensavi? Ma io credo sempre di aver avuto un po' di insofferenza per il lavoro dipendente. Devo dire che forse facevo fatica a trovare degli stimoli, cioè molto spesso lavoro dipendente, che tu lavori, io lavoravo molto perché la consulenza serve molto, ma capitava di lavorare sabato, domenica o dopo cena, senza poi trovare un riscontro diretto a quello che facevi, ecco. E questo ovviamente era una cosa che pesava molto, oltre al fatto che forse non mi sono mai sentito un vero consulente. Torno sul tema della serietà, perché è sicuramente un ambiente molto serio dove un po' forse anche si bisogna fingere, ecco, mantenere un certo aspetto, e quindi questo forse non mi piaceva tantissimo. Quindi non era solo una questione di essere dipendente o essere imprenditore? No, non era solo quello, era forse anche il contesto proprio che non mi faceva impazzire. Senti, tu hai moglie, figli? Sì, ho moglie e due bambini piccoli, e forse anche questa è stata una delle ragioni che mi ha dato la spinta, ecco. Ma perché non hai, cioè, lasciare un'attività quando uno ha delle persone a carico, tra virgolette? Cioè, non è invece una forma di resistenza, un pensiero in più? Allora, sicuramente da quel punto di vista ho fatto una scelta da pazzo, ecco. Se ci penso adesso non ci dormo la notte, ecco. In realtà poi l'idea di lasciare qualcosa un domani magari ai miei figli, qualcosa di più di qualcosa che non avrei potuto lasciare con un lavoro dipendente, è una cosa che mi stimola tantissimo, mi dà un sacco di energia, ecco. Però poi lo sai che poi la maggior parte dei figli non vogliono che i padri gli lasciano l'attività, vogliono essere lì. Speriamo che a quel punto possano decidere di venderla e fare qualcos'altro, ecco. Non insisterò per questo. Senti, ecco. Tu non so, avevi un biglietto da visita con quelli su scritto digital strategist, analyst, roba del genere? Sì, avevo una di quelle cose, con questi nomi inglesi, sì, multinazionali molto prestigiose, che uno si spaventa solo a guardarli, ecco. Ecco, e le persone che conoscevi, quando invece adesso gli dici che sei nel ramo frutta, ecco, come reagiscono? Io forse credo che c'è anche un pizzico forse di invidia, perché sotto forse molti vorrebbero fare questa, insomma, fare una pazzia. Poi, per carità, io rispetto le scelte di tutti e apprezzo anche quelli che hanno la forza e fanno bene il loro lavoro restando in consulenza, non voglio dire. Nulla, va bene, sembri convinto, insomma, sono sicuro che sarai da stimolo per gli ascoltatori. Chiudiamo chiedendoti qualcosa sul tuo bagaglio. La valigia e la zavorra. Fabio, cosa hai portato via dalla tua vecchia vita? Cosa ti sei portato appresso dalla tua vecchia vita di consulente? Ma guarda, un oggetto, una penna che mi regalarono quando iniziai, diciamo, la carriera di consulente, una penna molto, molto elegante, che però mi porto dietro anche quando vado a parlare con i produttori, con i contadini, insomma la mi penna, piace tenere. La penna è rimasta. E cosa hai buttato? Ah, decisamente abiti, scarpe, cravatte. insomma, la divisa, ecco, tra la, come... Noi siamo molto affezionati, ci disse un nostro ascoltatore romano, perché è un modo di dire romano, qualche puntata fa: non mi vesto più da pinguino. Quella c'è piaciuta. Ti chiedo, tu hai un sito, diamolo, perché penso che qualcuno si sia incuriosito. Sì, sì, allora il sito è www.ilbuonessere.it. Ah, un bel gioco di parole. Ma sì, era una cosa che secondo me rendeva molto il concetto, insomma, dello stare bene, al di là del mangiare bene, ecco. Quindi mi è piaciuto tantissimo, anche questa è stata una cosa casuale, ecco. Va comunque bene. Sul sito c'è un po', mi racconto un po', quindi se... Anche la tua storia. Va bene, grazie Fabio per averci raccontato il tuo giro di vita. Questo stile di vita è sconsigliato se solo il suono del cartellino timbrato vi fa sentire a casa. Nella proposta di matrimonio avete promesso un amore a tempo indeterminato. Al mercato deludete i venditori perché non trattate sul prezzo. La lettura che più vi rilassa è la vostra busta paga. Un amico vi presta 10 euro e voi non dormite la notte finché non li restituite. 800 24 00 24, questo è il numero per raccontarci se anche voi avete deciso di lasciare una professione, un mestiere, per aprire una vostra attività, e soprattutto come va, ma non tanto economicamente, anche se quello è importante, cioè se questa è una strada per la felicità, per la soddisfazione, se questa è una cosa che vi ha cambiato la vita, oppure se, come diciamo noi nelle nostre controindicazioni, c'è qualcuno che magari è impiegato dentro, è impiegato da generazioni e proprio non ha nessuna voglia, nessuna idea di diventare, come va di moda adesso e come sembra, insomma, quasi obbligatorio adesso, imprenditore di se stesso. E se lo facessi io? Giunti al momento di farsi consigliare da qualcuno insomma, in modi migliori per lasciare un lavoro fisso, un lavoro da dipendente, diventare imprenditori, visto che noi cerchiamo sempre di incoraggiarvi, ma non vorremmo poi essere, diciamo, tacciati di eccesso motivazionale, oggi sentiamo invece una persona che con un suo libro, secondo me, ne ha scoraggiati parecchi. Luigi Furini, giornalista e autore di un libro che si chiama Volevo solo vendere la pizza, ma non solo. Pronto? Buongiorno a tutti. Eccoci, insomma, Furini. È vero quello che hai detto. Hai scoraggiato tanti? Sì. Ricordiamo, sintetizziamo, il libro raccontava l'esperienza di un giornalista che a un certo punto decide di aprire una pizzeria e si scontra contro un mondo. Ma è una catena di pizzerie, non minimizziamo. Una catena. No, a parte lo scherzo, no, io volevo fare una catena, ho iniziato con uno, poi l'anello si è subito interrotto. Però già c'è la prima domanda, ma uno non dovrebbe partire da diventare imprenditore in qualcosa che ha conosciuto come dipendente? Cioè non è più normale se uno che ha lavorato in una pizzeria vuole fare il pizzaiolo e non si fa... Quello sì, però io facendo il giornalista cosa potevo fare? Cioè non è che uno oggi cosa faccio? Mi metto in proprio, compro un giornale. Vabbè, io ci ho pensato tante volte ad aprire una radio, ma non mi hanno mai lasciato mettere l'antenna sul condominio, quindi... Ecco, capito, una radio locale, una radio così, magari una radio sì, piccolina, in una piccola città, e quindi di no, campi di volevi fare la pizza? Io mi sono informato prima, ho detto o pizza o gelati, perché sono i due settori di attività dove si guadagna di più, almeno stando alle tabelle che mi ero procurato, no? Però il gelato è un lavoro più stagionale, mentre la pizza va tutto l'anno. Allora, poi fra il gelato e la pizza, che sono i due settori, ripeto, dove stando alle tabelle delle camere di commercio, delle cose, si guadagna, c'è il maggior ricarico, ho deciso per la pizza. Però ho avuto mille difficoltà. Io ho ascoltato la prima storia, sì? Di qui io gli faccio tantissimi auguri, ma di cuore. Io un lavoro fisso non lo mollerei, perché con i tempi che corrono è durissima. Io leggevo adesso, poco prima della vostra telefonata, che è uscito il dato Istat sulle disoccupazioni, no? Ci sono un ragazzo su quattro sotto i 25 anni senza lavoro. Viene voglia di dire mi metto in proprio, faccio qualcosa. E io vorrei che loro questo libro non lo leggessero, il mio libro. questi ragazzi qua, perché se lo leggono non lo fanno il lavoro improprio. Vorrei, e gli voglio dare una spinta davvero di cuore, perché loro vadano avanti, facciano qualcosa. Però è dura, è dura. Io dico, se posso dire la mia, visto che mi avete telefonato, grazie, approfitto del, attenzione, mettersi in proprio va bene, però attenzione ai soldi che investite, perché trovarsi un lavoro investendo dei soldi è abbastanza facile. Se uno li ha, soprattutto, cioè compro una tabaccheria, compro un bar, compro un'attività già esistente, metto 100, 200, 300, quello che serve, 1000 euro, e poi mi sono trovato un lavoro, perché faccio il tabaccaio, faccio il barista, faccio quello che... Ma poi i soldi bisogna che tornino. Una volta, se ti stufi di quel lavoro lì, e sei sicuro di trovare domani mattina chi ti ridà i tuoi 200, 300 mila euro? Posto che uno li ha, se uno non li ha ancora più difficile, perché deve andare in banca a chiederli e le banche non li danno. Questo è un problema di questo paese qua, dove al di là delle chiacchiere che sentiamo sui telegiornali tutti i giorni, le piccole imprese, le micro imprese non sono aiutate dal sistema bancario. Ho capito, Luigi, ma secondo te, tu quando hai fatto il tentativo della pizza, della catena di pizzeria, le hai tentate proprio tutte? Prima di chiudere? Sì. Io sono stato vinto dallo stress, perché a un certo punto lo stress mi ha ammazzato, perché avevo problemi con la burocrazia tutti i giorni. Io poi sono un po', forse un po' troppo scrupoloso, perché vedo che in altri posti vanno un po' più di manica larga e buonanotte. Ci vuole un po' di carattere, diciamo, un po' di essere un po' cattivelli a fare gli imprenditori. E forse anche cattivelli, non lo so, che vabbè, ormai cattiveria si usa per i calciatori, si usa per i comici, vabbè, cattivi in quel senso lì. Sì, sì. No, però bisogna essere un po', perché... insomma, sì, bisogna, quando si tratta, che quando gira la moneta, bisogna stare molto attenti. Bisogna, nel senso, quando gira, diciamo. Bisogna essere portati. Bisogna essere qui da portare. Ecco, va bene, Luigi. In un modo più. Sì, Luigi, ti ringrazio. Ricordo anche un altro tuo libro che si chiama Volevo solo lavorare. Che io qui e non so se leggerò, perché non vorrei scoraggiarmi anche su quello. E andiamo avanti con i nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Forse c'è un equivoco, Giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Dettoli! Ma lei non mi vuole dare 100 milioni? No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni, perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Eh? Non me l'ha mai detto l'ortolano? Ce l'ha lei un miliardo di melanzane? E visto che Luigi Furini ci parlava della difficoltà di farsi prestare dei soldi, questo era Benigni da Tu mi turbi, che cercava di farsi prestare dei soldi dal direttore di banca e faceva questo paragone, insomma, surreale, ma fino a un certo punto. Stavo leggendo un messaggio prima che non è firmato, non è molto specificato, ma secondo me è da un imprenditore, da uno che lavora in proprio per quelli che vorrebbero farlo. Dice solo: l'erba del vicino è sempre più verde. Vabbè. Francesco, pronto? Sì, pronto, ciao. Hai cambiato vita per metterti in proprio? Sì, io ero quello che all'inizio parlava il primo dei partecipanti, sulla sua interfaccia. Io ero un manager, ero un dirigente d'azienda. E non ce la facevi più di parlare con i consulenti? No, con i consulenti di solito ci si trovava anche abbastanza d'accordo. Avendo cambiato parecchie aziende, finché ero rimasto in un mondo, diciamo così, internazionale, trovavo spazio. Arrivato all'imprenditoria italiana, ho avuto più difficoltà, nel senso che ho trovato un livello che mi sembrava inadeguato, per cui, ascoltando un consulente che proprio presentava alla Feder Manager una relazione e diceva: beh, dirigenti, quando avete dei proprietari, degli imprenditori che non sono capaci di fare il loro lavoro, mollateli e mettetevi voi a fare l'imprenditore. E tu l'hai fatto? Facendo io l'ho cosa? Fatto. Io l'ho fatto. Che cosa hai aperto? abbiamo iniziato un'attività con un socio, un'attività che lavora nel servizio alle aziende, nel mondo civile e nel mondo dell'energia. Quindi, ma fai più o meno quello di cui ti occupavi prima? No, diciamo, prima, sai, come manager lavoravo in cartiere, nel mondo del motociclistico, nel mondo dei tabacchi, quindi diciamo manager di risorse, di settore impiantistico. Mi dici due cose: se guadagni di più o di meno e se sei felice, soprattutto. Infinitamente di meno come guadagno. Come felicità difficile da dire, sono in una situazione che non potrei tornare indietro, perché non acquisti una logica e un punto di vista a cui non puoi più rinunciare, perché lavori sul tuo. Quindi non si torna indietro, come diceva Furini, tanto perché non trovi, ma perché poi forse nemmeno vuoi. Grazie Francesco. Un altro ascoltatore, Massimo, pronto? Pronto Massimo? Massimo, non so se lo sentiamo bene. Sentiamo Carlo, pronto? Eccomi, buongiorno. Buongiorno Achille, io ero intervenuto il primo giorno della trasmissione per raccontare la mia storia. E intervieni a tre dalla fine. Adesso vi riprendo. Che cosa facevi e cosa fai? Vinco un concorso nel 78, entro in banca. Mia zia mi diceva, prova, fai il concorso, non si sa mai, un posto fisso. E sono rimasto prigioniero 23 anni. Prigioniero, questo è il termine. E poi come sei scappato? Con quale cucchiaino hai scavato nel muro? Ho fatto tre tentativi. Ero in un paesino vicino Roma, ho aperto una scuola di windsurf, molto divertente, molto bella, molto impegnativa, però è stata un'attività imprenditoriale singola, molto bella. Rientro a Roma al lavoro, apro un noleggio di motorini per alberghi, anche questa è una piccola operazione. Poi il grande passo, mi viene l'idea, soccorso stradale per moto, specializzato per moto, dove Roma è una città è l'idea giusta. Dimmi una cosa, proprio il domandone, perché devo chiudere. Sei felice? Sei contento? Sì, ma sto per rifare un altro giro. Ce lo racconti la prossima volta, però. Oppure no, diccelo al volo, però in una parola. Cosa adesso stai per fare? Mi occupo di selezione di personale su multilevel marketing. Ah, vabbè, allora si ricambia e si ritorna. Vedi che si può anche tornare. Noi invece torneremo domani a parlare di un altro argomento. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ringrazio tutti voi. Iscriveteci a Giro di Vita, @radio24.it. A domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.